Eliza capì che doveva agire in fretta perché un'altra occasione non si sarebbe presentata. Così stavano le cose quando videro il cinese procedere serenamente verso di loro con il suo incedere pencolante e l'imperturbabile sorriso. Ripeté gli inchini abituali di saluto e poi si rivolse a Eliza in un buon inglese per chiedere se la rispettabile figlia del capitano John Somers avesse bisogno di aiuto. Lei chiarì che non era la figlia bensì la nipote e in uno slancio di repentina confidenza o disperazione gli confessò che effettivamente aveva bisogno del suo aiuto ma che si trattava di una faccenda privata. Qualcosa che il capitano non può sapere, che nessuno deve sapere. Tao Qian si scusò. Il capitano era una brava persona, disse. L'aveva sequestrato in malo modo per imbarcarlo, era vero, ma poi si era comportato bene e lui non aveva intenzione di tradirlo. Abbattuta, Eliza crollò sulla panchina con il viso tra le mani, mentre Mama Fresia li osservava senza capire una parola di inglese, ma intuendo di cosa si trattasse. Alla fine si avvicinò a Eliza e scosse ripetutamente il sacchetto di velluto che conteneva i gioielli della dote. Bambina, pensi forse che a questo mondo qualcuno faccia qualcosa gratis? Disse. Eliza capì al volo, si asciugò le lacrime e indicò il posto di fianco al suo, invitando l'uomo a sedersi. Mise la mano nel sacchetto, estrasse la collana di perle che lo zio John le aveva regalato il giorno prima e la mise sulle ginocchia di Tao Qian. Può nascondermi in una nave? Ho bisogno di andare in California, spiegò. Perché? È un posto da banditi, non da donne. Vado a cercare una cosa. Oro? Una cosa più preziosa dell'oro. L'uomo rimase a bocca aperta perché una donna capace di gesti tanto determinati non l'aveva mai vista nella vita reale, ma solo nei romanzi classici dove le eroine nel finale morivano sempre. Con questa collana può comprare il biglietto? Non ha bisogno di viaggiare clandestinamente, le suggerì Tao Qian, che non aveva intenzione di complicarsi la vita violando la legge. Nessun capitano mi imbarcherà senza aver prima avvisato la mia famiglia. L'iniziale sorpresa di Tao Qian si trasformò in sincero stupore. Quella ragazza stava addirittura pensando di disonorare la sua famiglia e si aspettava che lui la aiutasse. Aveva qualche diavolo in corpo, non c'erano dubbi. Eliza tornò a introdurre la mano nel sacchetto, estrasse una spilla d'oro e turchesi e la depositò sulla gamba dell'uomo di fianco alla collana. Signore, lei ha mai amato qualcuno più della sua stessa vita? Chiese. Tao Qian la guardò negli occhi per la prima volta da quando si erano conosciuti e probabilmente vi lesse qualcosa perché prese la collana, se la nascose sotto la camicia e poi le rese la spilla. Si alzò in piedi, si aggiustò i pantaloni di cotone e il coltello da macellaio nella fascia in vita e nuovamente si inchinò con fare cerimonioso. Non lavoro più per il capitano Somers. Domani salpa per la California il brigantino Emilia. Venga domattina alle 10 e la farò salire a bordo. Come? Non lo so, vedremo. Tao Qian fece un ulteriore cortese gesto di commiato e si allontanò con tanta velocità e circospezione che sembrò essersi volatilizzato. Eliza e Mamma Fresia tornarono all'accademia di ballo giusto in tempo per imbattersi nel cocchiere che le attendeva da mezz'ora bevendo dalla sua fiaschetta. L'Emilia era una nave di origine francese che un tempo era stata elegante e veloce, ma che aveva solcato molti mari e da parecchio aveva perso l'impeto della gioventù. Era attraversata da vecchie cicatrici di mare, aveva una scia di molluschi incrostati sui fianchi matronali, le sue giunture gemevano sotto i colpi delle onde e il suo velame macchiato e mille volte rammendato sembrava l'ultima vestigia di una vecchia sottoveste. Salpò da Valparaiso la radiosa mattina del 18 febbraio 1849 con a bordo 87 passeggeri di sesso maschile, 5 donne, 6 vacche, 8 maiali, 3 gatti, 18 marinai, un capitano olandese, un pilota cileno e un cuoco cinese. Ed Eliza, ma l'unica persona a saperlo era Tao Qian. I passeggeri delle cabine di prima classe si ammucchiavano sul ponte di prua senza poter godere di molta intimità, ma certamente stavano più comodi degli altri, che si erano sistemati in cabine minuscole da 4 cuccette ciascuna o sui pavimenti in coperta, dopo aver tirato a sorte per sistemare i bagagli. Una cabina sotto la linea di galleggiamento venne assegnata alle 5 cilene che andavano a tentare la fortuna in California. Nel porto di Callao Sarebbero salite due peruviane che dovevano unirsi a loro senza fare tante storie in due per cuccetta. Il capitano Vincent Katz istruì ciurma e passeggeri intimando di non intrattenere il minimo contatto sociale con le signore, dal momento che non era disposto a tollerare rapporti osceni sulla sua imbarcazione. Ai suoi occhi risultava evidente che quelle viaggiatrici non erano tra le più virtuose, ma ovviamente i suoi ordini vennero violati ben più di una volta durante il viaggio. Gli uomini sentivano la mancanza di compagnia femminile e loro, umili meretrici, lanciate all'avventura, non avevano un centesimo in tasca. Le vacche e i maiali ben legati in piccoli recinti sul secondo ponte dovevano fornire latte fresco e carne ai navigatori, la cui dieta sarebbe consistita sostanzialmente di fagioli, gallette dure e nere, carne secca salata e quanto si riusciva a pescare. Per compensare tanta penuria, i passeggeri più abbienti si erano portati le loro vettovaglie, soprattutto vino e sigari, ma la maggior parte delle persone a bordo pativa la fame. Due dei gatti giravano liberamente per tenere sotto controllo i topi che altrimenti si sarebbero riprodotti liberamente durante i 2 mesi di traversata. Il terzo viaggiava con Eliza. Nel ventre dell'Emilia era stipato lo svariato bagaglio dei viaggiatori e il carico destinato al commercio in California, immagazzinato in modo da sfruttare al massimo lo spazio. Niente di tutto ciò veniva toccato fino alla destinazione finale. E nessuno poteva entrare lì, fatta eccezione per il cuoco, l'unico a godere di accesso autorizzato alle derrate secche, severamente razionate. Tao Qian teneva le chiavi appese in vita e rispondeva personalmente presso il capitano del contenuto della stiva. Lì, nella parte più buia e profonda, in un buco di 2 metri per 2, viaggiava anche Eliza. Le pareti e il soffitto del suo tugurio erano formate da bauli e casse di merci. Il suo letto era un sacco e l'unica fonte di luce l'estremità di una candela. Disponeva di una scodella, di una brocca d'acqua e di un orinale. Poteva fare 2 passi, allungarsi tra i pacchi e poteva piangere e gridare a suo piacimento perché le sferzate delle onde contro l'imbarcazione inghiottivano la sua voce. L'unico contatto con il mondo esterno era Tao Qian che, quando poteva, con un pretesto qualsiasi, scendeva per darle da mangiare e per vuotare la bacinella. In quanto a compagnia, poteva contare su un gatto che era stato rinchiuso nella stiva per controllare i topi, ma durante le terribili settimane di navigazione il povero animale impazzì e alla fine, purtroppo, Tao Qian dovette tagliargli il collo con il suo coltello. Eliza salì a bordo in un sacco portato a spalla da uno dei tanti stivatori che stoccavano le merci e i bagagli a Valparaiso. Non venne mai a sapere come si arrangiò Tao Qian per ottenere la complicità dell'uomo ed eludere i controlli del capitano e del pilota che annotavano su un libro tutto ciò che entrava. Era scappata poche ore prima grazie a un macchinoso stratagemma che aveva previsto anche la falsificazione di un invito scritto con cui la famiglia Del Valle desiderava ospitarla per qualche giorno nella sua tenuta. Non era un'idea strampalata. In un paio di occasioni precedentemente le figlie di Agustin Del Valle l'avevano invitata in campagna e Miss Rose le aveva permesso di andare, sempre accompagnata da mamma Fresia. Si era congedata da Jeremy, da Miss Rose e dallo zio John con simulata leggerezza, mentre il petto era schiacciato come dal peso di una pietra. Li aveva visti seduti alla tavola della colazione, intenti a leggere giornali inglesi, innocentemente ignari dei suoi progetti, e una dolorosa incertezza l'aveva quasi fatta desistere. Erano tutta la sua famiglia, rappresentavano la sicurezza e il benessere, ma lei aveva varcato la linea della decenza e non c'era modo di tornare indietro. I Somers l'avevano educata alle rigide norme del buon comportamento e un errore così grave insozzava il prestigio di tutti. Con la fuga, la reputazione della famiglia veniva macchiata, ma almeno rimaneva un margine di dubbio. Potevano sempre dire che era morta. Quale che fosse la spiegazione che avrebbero dato al mondo, lei non sarebbe stata lì a vederli patire tale vergogna. L'idea di partire alla ricerca dell'amante le sembrava l'unica strada percorribile, ma in quel momento di silenzioso commiato venne assalita da una tale tristezza che fu sul punto di scoppiare in lacrime e confessare tutto. Fu allora che l'ultima immagine di Joaquin Andieta la notte della partenza le si presentò con precisione estrema a rammentarle il suo dovere d'amore. Si sistemò alcune ciocche ribelli, si accomodò il cappello di paglia italiana e uscì salutando con un gesto della mano. Nella valigia preparata da Miss Rose con i migliori vestiti estivi c'erano anche alcune monete d'argento sottratte dalla camera di Jeremy Somers e i gioielli della sua dote. Aveva avuto la tentazione di impadronirsi anche di quelli di Miss Rose, ma all'ultimo momento era stata vinta dal rispetto per quella donna che le aveva fatto da madre. In camera sua, dentro lo scrigno vuoto, aveva lasciato un bigliettino in cui ringraziava per tutto quello che le avevano dato e ripeteva quanto li amasse. Confessava anche quello che si portava via per proteggere la servitù da ogni sorta di sospetti. Mamma Fresia aveva messo nella valigia le sue scarpe più resistenti, così come i quaderni e il fascio di lettere d'amore di Joaquín Andieta. Con sé portava anche una pesante coperta di lana castigliana, regalo dello zio John. Si erano allontanate senza destare sospetti. Il cocchiere le aveva lasciate nella strada della famiglia del Valle ed era scomparso senza attendere che venisse loro aperta la porta. Mamma Fresia ed Eliza si erano dirette al porto per trovarsi con Tao Chien nel luogo e allora convenuti. L'uomo le stava aspettando, prese la valigia dalle mani di mamma Fresia e indicò a Eliza di seguirlo. La ragazza e la tata si abbracciarono a lungo e, pur sapendo che non si sarebbero più riviste, nessuna delle due versò una lacrima. «Cosa dirai a Miss Rose, mamita?» «Niente. Me ne vado direttamente dalla mia gente a sud e nessuno mi troverà mai.» «Oh, grazie, mamita. Mi ricorderò sempre di te. E io pregherò perché ti vada tutto bene, bambina mia.» Furono le ultime parole che Eliza sentì dalle labbra di mamma Fresia prima di seguire il cuoco cinese in una casetta di pescatori. Nella buia stanza di legno senza finestre, che sapeva di reti umide e la cui unica ventilazione proveniva dalla porta, Tao Chien consegnò a Eliza dei pantaloni e un camiciotto molto logoro, dicendole di indossarli. Non accennò ad allontanarsi o a girarsi per discrezione. Eliza vacillò. Non si era mai denudata davanti a un uomo, a parte Joaquín Andieta, ma Tao Chien non colse il suo esitare, poiché era privo del senso del pudore. Il corpo e le sue funzioni per lui erano qualcosa di naturale e la pudicizia, più che una virtù, gli sembrava un impaccio. Eliza capì che non era il momento di farsi degli scrupoli. L'imbarcazione salpava quella mattina stessa e le scialuppe stavano portando gli ultimi bagagli. Si tolse il cappellino di paglia, sbottonò gli stivaletti di cordovano e l'abito, sciolse i nastri della sottoveste e, morendo di vergogna, chiese al cinese di aiutarla a togliersi il corsetto. A mano che i suoi vestiti da bambina inglese si ammucchiavano sul pavimento, lei perdeva uno a uno i contatti con la realtà nota ed entrava inesorabilmente in quella strana illusione che sarebbe stata la sua vita negli anni successivi. Ebbe la netta sensazione che stesse per iniziare un'altra storia di cui lei era al contempo protagonista e narratrice. Il quarto figlio. Tao Chien non aveva sempre avuto quel nome. A dire il vero, non ne aveva avuto uno fino a 11 anni. I suoi genitori erano troppo poveri per potersi occupare di dettagli come questo. Lui era semplicemente il quarto figlio. Era nato 9 anni prima di Eliza, in un villaggio della provincia di Kwantung, a un giorno e mezzo di strada a piedi dalla città di Canton. Discendeva da una famiglia di guaritori. Per molte generazioni gli uomini della sua stirpe si erano trasmessi di padre in figlio conoscenze sulle piante medicinali, sull'arte di estrarre umori cattivi, sulla magia con cui spaventare gli spiriti malvagi e sulla capacità di regolare l'energia, il chi. L'anno in cui nacque il quarto figlio, la famiglia si trovava nella miseria più profonda, avendo dovuto lasciare la terra nelle mani di usurai e biscazzieri. Gli ufficiali dell'impero che riscuotevano le tasse, oltre a incassare commissioni illegali e tangenti, tenevano per sé il denaro e poi applicavano nuovi tributi per occultare i loro furti. La famiglia del quarto figlio, come la maggior parte dei contadini, non era in grado di pagare. Se riuscivano a salvare dai mandarini qualche moneta delle loro magre entrate, le perdevano immediatamente al gioco. Uno dei pochi divertimenti alla portata dei poveri. Si poteva scommettere alle corse dei ranocchi e delle cavallette, ai combattimenti di scarafaggi o al fantan e a molti altri giochi popolari. Il quarto figlio era un bambino allegro cui bastava poco per ridere, ma che dimostrava anche un'incredibile capacità di concentrazione e curiosità di imparare. A 7 anni sapeva già che il talento di un buon guaritore consiste nel mantenere l'equilibrio tra yin e yang. A 9 conosceva le proprietà delle piante della regione ed era in grado di aiutare suo padre e i fratelli maggiori nella complessa preparazione di impiastri, pomate, tonici, balsami, sciroppi, polveri e pillole della farmacopea contadina. Suo padre e il primo figlio viaggiavano a piedi di villaggio in villaggio per offrire cure e rimedi, mentre i figli secondo e terzo coltivavano un misero pezzo di terra. L'unico bene della famiglia. Il quarto figlio aveva il compito di raccogliere le piante medicinali, attività che svolgeva con piacere perché gli consentiva di vagare nei dintorni senza vigilanza, di inventarsi dei giochi e di imitare il canto degli uccelli. Talvolta, se, dopo aver finito le interminabili faccende domestiche, le rimaneva un po' di forza, lo accompagnava sua madre che, in virtù della sua condizione femminile, non poteva lavorare la terra senza diventare oggetto di scherno da parte dei vicini. Erano sopravvissuti a stento, indebitandosi sempre di più, fino a quel fatale 1834, anno in cui i più crudeli spiriti malvagi si scagliarono contro la famiglia. Per cominciare, una pentola d'acqua bollente si rovesciò sulla sorella minore di appena 2 anni, ustionandola dalla testa ai piedi. Le applicarono albumi sulle bruciature, la curarono con le erbe consigliate in questi casi, ma in meno di 3 giorni la bambina, vinta dalla sofferenza, morì. La madre non si riprese. Aveva perso altri figli quando erano piccoli e ognuno di loro le aveva lasciato una ferita nell'anima, ma questo incidente fu la goccia che fece traboccare il vaso. Iniziò a deperire a vista d'occhio, diventò ogni giorno più magra, la pelle si fece verdognola e le ossa fragili e i beveroni del marito non riuscirono a rallentare l'inesorabile progredire della sua misteriosa malattia. Fino a quando, una mattina, la trovarono rigida, con un sorriso di sollievo e gli occhi in pace perché finalmente si sarebbe riunita ai suoi bambini morti. Trattandosi di una donna, la cerimonia funebre fu molto semplice. Non fu possibile assoldare un monaco né offrire il riso ai parenti e ai vicini durante il rito, ma perlomeno ci si premurò di verificare che il suo spirito non si rifugiasse sul tetto, nel pozzo o nelle tane dei topi, da dove poi si sarebbe potuto presentare per farli penare. Senza la madre, che con le sue fatiche e la sua inesauribile pazienza aveva mantenuto unita la famiglia, fu impossibile arrestare le calamità. Fu un anno di tifoni, di cattivi raccolti e di carestia, e il vasto territorio della Cina si popolò di mendicanti e banditi. La sorellina di 7 anni fu venduta a un agente e non si seppe mai più nulla di lei. Il primo figlio, destinato a sostituire il padre nella professione di medico ambulante, venne morsicato da un cane malato e morì poco dopo con il corpo teso come un arco e con la schiuma alla bocca. I figli, secondo e terzo, avevano già raggiunto l'età per lavorare, su di essi ricadde il compito di occuparsi del padre fino a quando fosse rimasto in vita, di espletare i riti funebri alla sua morte e di onorare la sua memoria e quella degli altri avi maschi per 5 generazioni. Il quarto figlio non era particolarmente utile e inoltre non si sapeva come nutrirlo. Quindi il padre decise di cederlo come schiavo per 10 anni ad alcuni commercianti che erano passati con le loro carovane nei pressi del villaggio. Il bambino aveva allora 11 anni. Grazie a uno di quegli eventi fortuiti che lo avrebbero spinto più di una volta nella vita a modificare la rotta, quel periodo di schiavitù, che sarebbe potuto essere un inferno per il ragazzo, si rivelò in realtà molto più proficuo degli anni trascorsi sotto il tetto paterno. 2 muli trainavano il carro delle merci più pesanti della carovana. Uno snervante stridio accompagnava ogni giro delle ruote che non venivano liate con il preciso scopo di spaventare gli spiriti maligni. Per evitare che fuggisse, legarono con una corda a uno degli animali il quarto figlio che piangeva sconsolatamente da quando si era separato dal padre e dai fratelli. Scalzo e assetato, con la borsa delle sue misere proprietà sulla schiena, vide sparire i tetti del villaggio e il paesaggio familiare. La vita nella capanna era l'unica cosa che aveva conosciuto e non era stata brutta. I genitori lo trattavano con dolcezza, sua madre gli raccontava delle storie e qualsiasi pretesto era buono per ridere e per far festa, anche nei momenti di maggiore povertà. Tuttavia, Trottava dietro al mulo, convinto che ogni passo lo facesse addentrare progressivamente nel territorio degli spiriti maligni, e temeva che il cigolio delle ruote e le campanelle appese al carro non fossero sufficienti a proteggerlo. Riusciva a stento a capire il dialetto dei viaggiatori e le poche parole afferrate al volo alimentavano in lui una paura terribile. Girava voce che fossero molti i geni infelici che vagavano per la regione, anime perse di morti che non avevano ricevuto un funerale adeguato. La carestia, il tifo e il colera avevano disseminato la zona di cadaveri e i vivi non erano sufficienti a rendere omaggio a tanti defunti. Fortunatamente, spettri e demoni avevano fama di essere un po' ottusi, non sapevano svoltare e si distraevano facilmente con offerte di cibo e regali di carta. A volte, tuttavia, non c'era nulla che li potesse allontanare e, pronti a guadagnarsi la libertà, potevano materializzarsi assassinando i forestieri o introducendosi nel loro corpo per obbligarli a compiere impensabili misfatti. Procedevano da alcune ore. La calura estiva e la sete erano opprimenti, il ragazzino inciampava a ogni passo e i nuovi padroni, impazienti, lo spronavano, pur senza cattiveria, con bacchettate sulle gambe. Al tramonto decisero di fermarsi e di accamparsi. Alleggerirono gli animali del carico, fecero un fuoco, prepararono il tè e si divisero in piccoli gruppi per giocare a Fantan e a Mahjong. Alla fine qualcuno si ricordò del quarto figlio e gli diede una scodella di riso e un bicchiere di tè, su cui lui si avventò con la voracità accumulata in mesi e mesi di fame. Fu allora che vennero sorpresi da un frastuono di ululati e si videro circondati da un gran polverone. Alle grida degli assalitori si aggiunsero quelle dei viaggiatori e il ragazzino, terrorizzato, si trascinò sotto il carro fino a dove glielo consentì la corda a cui era legato. Non si trattava di una legione infernale, come immediatamente fu chiaro, ma di una delle molte bande di briganti che, facendosi beffe degli inefficienti soldati imperiali, infestavano le strade in quei tempi di così profonda disperazione. Non appena i mercanti si furono ripresi dal primo impatto, imbracciarono le armi e affrontarono i fuorilegge in una battaglia di urla, minacce e spari che non durò più di qualche minuto. Quando la polvere si depositò, uno dei banditi era fuggito e gli altri due giacevano a terra feriti. Tolsero loro dal viso i fazzoletti e scoprirono che si trattava di adolescenti vestiti di stracci e armati di bastoni e lance primitive. Procedettero allora a un'immediata decapitazione per far loro soffrire l'umiliazione di andarsene da questo mondo in pezzi e non interi come vi erano arrivati, e le loro teste impalate vennero collocate sui due lati della strada. Solo quando gli animi si furono tranquillizzati, notarono che un membro della carovana si rotolava a terra con una profonda ferita da lancia nella coscia. Il quarto figlio, che era rimasto nascosto sotto il carro, paralizzato dal terrore, uscì strisciando dal nascondiglio e rispettosamente chiese agli onorevoli mercanti il permesso di prendersi cura del ferito e, visto che non c'era alternativa, venne autorizzato a procedere. Chiese del tè per poter lavare il sangue, poi aprì la borsa e fece una pallina di Bai Yao. Applicò la pasta bianca sulla ferita, fasciò stretta la gamba e annunciò, senza la minima esitazione, che in capo a 3 giorni la ferita si sarebbe rimarginata. E così fu. Quell'incidente lo salvò da 10 anni di lavoro come schiavo e dall'essere trattato peggio di un cane, perché, viste le sue capacità, i mercanti a Canton lo vendettero a un noto medico tradizionale, nonché maestro agopuntore, uno Zhonghi, che stava cercando un apprendista. Grazie a quel saggio, il quarto figlio apprese le nozioni che il suo rozzo padre mai sarebbe stato in grado di tramandargli. L'anziano maestro era un uomo placido, dal volto liscio e tondo, voce lente, mani ossute e sensibili, i suoi strumenti migliori. La prima cosa che fece fu di dare un nome al servitore. Consultò libri di astrologia e indovini per trovare il nome che corrispondesse al ragazzo, Tao. La parola aveva vari significati, quali strada, direzione, senso e armonia, ma soprattutto rappresentava il viaggio della vita. Il maestro gli diede il suo cognome. Ti chiamerai Tao Qian. Questo nome ti inizia il cammino della medicina. Il tuo destino sarà quello di alleviare il dolore altrui e di raggiungere la saggezza. Sarai un Zhonghi come me. Tao Qian, il giovane apprendista, accolse il nome con gratitudine, baciò le mani del padrone e per la prima volta da quando si era allontanato dal focolare sorrise. Quell'istinto allegro, che lo faceva ballare dalla contentezza senza motivo, tornò a palpitare nel suo petto e il sorriso non lo abbandonò per settimane. Girava per la casa saltando, assaporando il suo nome con godimento, come una caramella in bocca, ripetendolo ad alta voce e sognandolo, fino a quando non si identificò completamente con esso. Il maestro, seguace di Confucio per gli aspetti pratici e di Buddha per quelli ideologici, gli insegnò con mano ferma ma con grande tenerezza la disciplina che avrebbe fatto di lui un buon medico. Se riuscirò a insegnarti tutto ciò che vorrei, un giorno sarai un uomo illuminato, gli disse. Sosteneva che riti e cerimonie sono necessari quanto le norme della buona educazione e il rispetto delle gerarchie, che la conoscenza senza la saggezza serve a poco, che non c'è saggezza senza spiritualità e che la vera spiritualità comprende sempre il servizio agli altri. Come gli spiegò in più di un'occasione, l'essenza di un buon medico si fonda sulla capacità di compassione e sul senso etico, senza i quali la sacra arte della guarigione degenera in mera ciarlataneria. Il sorriso facile del suo apprendista gli piaceva. Hai già percorso un bel pezzo della strada della saggezza, Tao. Il saggio è sempre allegro, sosteneva. Durante tutto l'anno Tao Qian si alzava all'alba, come qualsiasi studente, per dedicarsi all'ora di meditazione, di canti e preghiere. Godeva di un unico giorno di riposo per la celebrazione dell'anno nuovo e lavorare e studiare erano le sue due uniche occupazioni. In primo luogo dovette impadronirsi alla perfezione del cinese scritto, mezzo ufficiale di comunicazione in quell'immenso territorio di centinaia di paesi e lingue. Il maestro era inflessibile in quanto a bellezza e precisione della calligrafia che distingueva l'uomo raffinato dall'imbroglione. Insisteva anche nello sviluppare in Tao Qian quella sensibilità artistica che a suo dire caratterizzava gli esseri superiori. Come ogni cinese civilizzato, provava un disprezzo profondo per la guerra e manifestava inclinazioni invece per le arti musicali, pittoriche e letterarie. Al suo fianco, Tao Qian imparò ad apprezzare il delicato ricamo di una ragnatela perlata di gocce di rugiada alla luce dell'aurora e a esprimere il piacere in ispirate poesie redatte in elegante calligrafia. Stando al maestro, l'unica cosa peggiore del non comporre poesie era comporle male. In quella casa, il ragazzo partecipò a frequenti riunioni in cui gli invitati creavano versi sull'ispirazione del momento e ammiravano il giardino mentre lui serviva il tè, ascoltando meravigliato. Si poteva raggiungere l'immortalità scrivendo un libro, soprattutto di poesie, diceva il maestro, che ne aveva scritti diversi. Alle rozze conoscenze pratiche che Tao Qian aveva acquisito osservando lavorare il padre, aggiunse l'impressionante mole teorica dell'ancestrale medicina cinese. Il giovane apprese che il corpo umano è composto da cinque elementi, legno, fuoco, terra, metallo e acqua, a loro volta associati a cinque pianeti, cinque condizioni atmosferiche, cinque colori e cinque note. Attraverso l'uso adeguato delle piante medicinali, dell'agopuntura e dei salassi, un buon medico poteva prevenire e curare diverse malattie e controllare l'energia maschile attiva e leggera e quella femminile passiva e scura, yin e yang. Tuttavia, obiettivo di quell'arte non era tanto eliminare le infermità quanto mantenere l'armonia. Devi scegliere i tuoi alimenti, orientare il tuo letto e condurre le meditazioni, tenendo presente la stagione dell'anno e la direzione del vento. Così sarai sempre in risonanza con l'universo, gli consigliava il maestro. Lo Chung-hee era contento del suo destino, anche se l'assenza di discendenti minava la serenità del suo spirito. Non aveva avuto figli, nonostante le erbe miracolose ingerite regolarmente nel corso dell'intera vita per pulire il sangue e rinvigorire il membro, e nonostante gli incantesimi rimedi applicati alle sue due spose morte in gioventù, come anche alle numerose concubine che le avevano seguite. Doveva accettare con umiltà che non era stata colpa di quelle donne volonterose, bensì dell'apatia del suo liquido virile. Nessuna delle cure per la fertilità che gli erano servite per aiutare i suoi pazienti aveva funzionato e alla fine si era rassegnato al fatto innegabile che i suoi reni fossero secchi. Smise di castigare le sue donne con inutili richieste e godette pienamente con loro, secondo i precetti dei bei libri del guanciale della sua collezione. L'anziano si era comunque allontanato da tali piaceri molto tempo prima, più interessato ad acquisire nuove conoscenze e a esplorare l'angusto sentiero della saggezza, e si era disfatto a una delle sue concubine, la cui presenza lo distraeva dagli impegni intellettuali. Non aveva bisogno di avere davanti agli occhi una ragazza per descriverla in elevate poesie, era sufficiente il ricordo. Anche se aveva desistito dal progetto di avere figli propri, doveva comunque pensare al futuro. Chi lo avrebbe aiutato nell'ultima tappa e nell'ora della morte? Chi avrebbe pulito la sua tomba e venerato la sua memoria? In precedenza aveva addestrato diversi apprendisti e con ognuno di essi aveva alimentato la segreta ambizione di adottarlo, ma poi nessuno si era rivelato degno di tale onore. Tao Qian non era più intelligente o più intuitivo degli altri, ma albergava un'ossessione per l'apprendimento che il maestro aveva immediatamente riconosciuto, poiché identica alla sua. Inoltre, era un ragazzino dolce e divertente, cui era facile voler bene. Durante gli anni di convivenza gli si affezionò tanto da arrivare spesso a chiedersi come fosse possibile che non fosse suo figlio di sangue. Tuttavia la stima per l'apprendista non lo accecava, sapeva per esperienza che i cambiamenti dell'adolescenza solitamente sono molto profondi e non poteva prevedere che tipo di uomo sarebbe stato. Recita il proverbio cinese: se sei brillante da giovane, non è detto che da adulto tu sia in grado di fare qualcosa. Aveva paura di sbagliarsi, come gli era già successo, e preferiva attendere con pazienza che si rivelasse la vera natura del ragazzo. Nel frattempo l'avrebbe guidato, come faceva con i giovani alberi del giardino, per aiutarlo a crescere dritto. Perlomeno impara in fretta, pensava l'anziano medico, mentre calcolava quanti anni di vita gli rimanessero. Stando ai segni astrali e alla minuziosa osservazione del proprio corpo, non avrebbe avuto il tempo per addestrare un altro apprendista. Ben presto Tao Qian fu in grado di scegliere gli ingredienti al mercato e nei negozi di erbe, di mercanteggiare il giusto e di preparare da solo i rimedi. Osservando il medico lavorare, giunse a conoscere gli intricati meccanismi dell'organismo umano, i procedimenti con cui rinfrescare chi soffriva di febbre e i temperamenti focosi, offrire calore a chi soffriva del freddo precoce della morte, stimolare i succhi negli sterili e asciugare quanti erano stremati dai flussi. Compiva lunghe escursioni nei campi in cerca delle piante migliori e nel momento più fertile della loro crescita, poi le trasportava a volte in panni umidi per mantenerle fresche durante il tragitto verso la città. Quando compì i 14 anni, il maestro lo ritenne ormai capace di esercitare e iniziò a mandarlo regolarmente a curare prostitute con l'ordine perentorio di astenersi dal commercio con loro perché, come lui stesso poteva verificare esaminandole, avevano la morte addosso. Le malattie dei bordelli uccidono più persone dell'oppio e del tifo, ma se ti attieni ai tuoi doveri e impari velocemente, a tempo debito, ti comprerò una ragazza vergine, gli promise il maestro.